GR24, il sole edizione extra large. Non permetteremo occupazioni e violenza. Berlusconi in soccorso del ministro Gelmini per difendere la riforma della scuola e i tagli agli atenei. Veltroni incalza un decreto da ritirare. No, grazie. Le banche declinano l'invito del premier. Non abbiamo bisogno di liquidità, dicono gli istituti italiani. Ma intanto le borse tornano a vedere nero. Arriva in Europa l'onda lunga di Wall Street e Asia. Giuseppe Frigo, giudice della Corte Costituzionale. Pace fatta perché io sono uomo fuori dal Parlamento, dice ai microfoni di Extra Large. La prossima battaglia per il decreto all'Italia. La Camera è pronta a votare e a spaccarsi ancora. L'India spicca al volo. Prima missione spaziale per Nuova Delhi. Una navicella diretta sulla Luna. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. Ed Anna Migliorati. Ieri, come sapete, gli scontri a Milano, ma sono ormai decine le piazze, le scuole, gli atenei in rivolta contro i tagli nelle università e la riforma della scuola. Poco fa è intervenuto a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Berlusconi, che si è presentato in sala stampa a fianco del ministro Maria Stella Gelmini. Non ci saranno tagli, è un falso della sinistra, ha detto il premier in un lungo discorso difendendo la riforma. In 5 anni ci saranno 6.000 nuove classi a tempo pieno, ha aggiunto rassicurando le famiglie. E poi ha proseguito: le classi per stranieri non sono una mozione razzista, ma semplice buonsenso. Poi però ha aggiunto: non permetteremo che vengano occupate scuole ed università, perché l'occupazione di posti pubblici non è una dimostrazione, un'applicazione di libertà, non è un fatto di democrazia, è una violenza nei confronti degli altri studenti, nei confronti delle famiglie, nei confronti delle istituzioni, nei confronti dello Stato. Convocherò oggi il Ministro degli Interni e darò a lui istruzioni dettagliate su come intervenire attraverso le forze dell'ordine per evitare che questo possa succedere. La realtà, tuttavia, che conosciamo di queste ore, di questi giorni, è una realtà di aule universitarie piene di ragazzi che intendono studiare e di manifestanti che sono organizzati dall'estrema sinistra, molto spesso, come a Milano, dai centri sociali e da una sinistra che ha trovato, chiudo come ho cominciato, nella scuola un modo per far passare delle menzogne e portare una opposizione nelle strade e nelle piazze all'attività del nostro governo. Ma intanto, dicevamo, appunto, le manifestazioni e le occupazioni degli atenei proseguono. Dopo i cortei di ieri da Firenze a Milano, il fronte universitario della protesta si allarga. Alla Sapienza di Roma gli studenti hanno occupato 4 facoltà, scienze politiche, lettere, filosofia, chimica e fisica. Giorgio Sestili, studente di fisica. Abbiamo chiuso i 2 dipartimenti di fisica con catene, abbiamo chiuso i cancelli e quindi attualmente completamente bloccata non solo l'attività didattica ma anche di ricerca. Partecipazione e discussione sono le parole d'ordine, come spiega Francesco Brancaccio di Scienze Politiche. La prima forma di protesta degli studenti deve essere proprio quella del blocco della didattica e della riconversione della didattica in attività critiche e in attività di discussione sui problemi che investono l'università. Non facciamo slogan, ragioniamo, costruiamo un proposito. Anche ieri sera è stato interessantissimo, c'era un'aula occupata da alcuni studenti della Facoltà di Scienze Politiche e sono stati tutta la notte a studiare la legge 133. E mentre a Torino gli studenti occupano Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche, a Milano i rappresentanti dei collettivi vogliono proporre le elezioni in piazza per il prossimo venerdì. Gioia Reffo, GR24, il sole 24 ore. E cosa succederà nei confronti di chi sta protestando? Interverrà la polizia, come ha fatto intendere il premier? Al microfono di Valentina Furlanetto, il sottosegretario agli interni Alfredo Mantovano. Vi è un dovere generale delle forze di polizia di intervenire quando vengono consumati dei reati. E certamente quello di impedire agli alunni, ai docenti di entrare nelle aule scolastiche, di impedirlo con la forza, è un comportamento contrario alla legge. Nel concreto tutti conoscono le difficoltà costituite dal fatto che vi è intanto l'esigenza di garantire l'ordine pubblico e gli interventi di ordine pubblico non sempre al momento sono facili e impongono in qualche caso atteggiamenti di tolleranza per evitare danni maggiori. Il governo non deve dare nessuna direttiva particolare dal momento che il comportamento delle forze di polizia è determinato dallo sforzo di far rispettare la legge. Ma torniamo alla conferenza stampa a Palazzo Chigi, terminata pochi minuti fa. A fianco del Presidente del Consiglio, dicevamo, il Ministro Gelmini, che dopo la scuola ha confermato interverrà anche sull'università, però solo dopo che ci sarà stata la conversione in legge del decreto appunto sulla scuola. E a proposito dell'università, Gelmini ha ricordato i numeri negativi del nostro sistema e poi lanciato un appello. Il nostro paese, la nostra università, sforna un numero di laureati che è inferiore a quello del Cile. Abbiamo 94 università e ben 320 sedi distaccate. Non c'è una università italiana nelle prime 150 università al mondo. Sono dati che noi ereditiamo, che sono sotto gli occhi di tutti. E allora io mi aspetto che, anziché bruciare, come è avvenuto in questi giorni, un decreto che peraltro non tocca l'università, a fronte di una disponibilità che io confermo a ragionare con tutto il mondo accademico, però ci sia da parte dei rettori e dei professori anche un po' di autocritica. Io oggi invito e faccio un appello perché rispetto alle proteste ci sia un abbassamento dei toni. Un abbassamento dei toni, chiede il ministro Gelmini, ma a dimostrare che di certo il tema in questi giorni è davvero caldo, solo questa mattina era arrivata la provocazione del segretario del Partito Democratico Walter Veltroni, che si prepara alla manifestazione di sabato e che ai microfoni di Radio Anch'io ha detto così. Il problema è che tutta questa vicenda della scuola e dell'università è partita da un'esigenza di taglio e non da un'esigenza di riforma della scuola e dell'università. Io, se fossi nel governo, farei un gesto politico. Ritirerei quel decreto Gelmini che è alla base di tutta questa sofferenza e ritirerei le misure finanziarie prese, magari fornendo degli obiettivi di finanza pubblica sui quali determinare una ristrutturazione dei costi, ma anche specificando che ogni lira tagliata di sprechi all'interno del sistema scolastico deve rimanere nella scuola. Così Walter Veltroni. C'è un'altra questione che riguarda la scuola italiana ed è quella dell'inserimento dei ragazzi stranieri nelle classi. Di questo però torneremo a parlarne più avanti. A XL ce ne stiamo già occupando da alcuni giorni, raccontandovi cosa accade in altri paesi, e lo faremo anche oggi. No, grazie. Così rispondono oggi le banche italiane al premier Berlusconi. Ieri da Napoli, il discorso fra l'altro l'abbiamo fatto sentire proprio a quest'ora, all'ora di pranzo, all'interno di Extra Large, il Presidente del Consiglio, ricorderete, aveva aperto la strada all'aumento di capitale in altre banche. Forse, erano state le sue parole, due o tre banche, oltre a Unicredit, avranno dei vantaggi ad aumentare il proprio capitale, trovando naturalmente i mezzi sul mercato. Oggi la replica degli istituti che hanno detto di no. Cosa è successo? A Milano è in corso l'esecutivo dell'ABI, dove c'è il collega di Radio Cor, Paolo Paronetto. Buongiorno Paolo. Buongiorno a tutti. Cosa è successo dunque? Un no grazie? Sì, praticamente un no grazie. Il messaggio lanciato dai principali banchieri italiani riuniti qui a Milano per il comitato esecutivo dell'ABI è che le banche italiane sono solide e non hanno bisogno di aumenti di capitale. Rassicurazioni sulla solidità patrimoniale degli istituti sono arrivate dall'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Corrado Passera, dal presidente del consiglio di gestione di UBI Banca, Emilio Zanetti, dal consigliere delegato del Banco Popolare, Fabio Innocenzi, e dal presidente della Banca Popolare di Milano, Roberto Mazzotta. E pensiamo di avere una struttura patrimoniale adeguata, ha ribadito ancora una volta Passera, sottolineando di non avere nessun timore. Sul fronte del mercato interbancario intanto sono arrivati nuovi segnali di distensione ad alleggerire la tensione che si era aumentata sul fronte del mercato interbancario, dove il tasso Euribor è sceso al 4,936%. Grazie Paolo Paronetto. E queste sono le notizie che riguardano le banche e i tassi interbancari, però invece dalle borse arrivano brutte notizie. Deborah Rosciani, come sta andando? Sta andando piuttosto male dopo un'apertura negativa di circa 2 punti e mezzo sui principali listini. Adesso il quadro si sta ulteriormente deteriorando. Parigi meno 3,78, Francoforte meno 3,65, Londra meno 3,26, Milano meno 2,67% sull'S&P MIB. Vi segnalo che invece l'indice spagnolo sta perdendo il 6%. A dominare sui mercati è il timore della recessione. Si stanno incoraggiando così gli investitori ad alleggerire le posizioni sul mercato azionario. Del resto i conti dei gruppi americani, che in questi giorni stanno pubblicando i numeri del terzo trimestre, sono piuttosto deludenti. Vi segnalo anche quello che accade sul mercato valutario. L'euro sul dollaro quota 1,2857, quindi è disceso sotto la soglia psicologica di 1,30, un livello che non vedeva da 2 anni a questa parte. Grazie Deborah Rosciani. Voltiamo pagina, andiamo a Vicenza. Notizia dell'ultima ora: le ruspe sono entrate in azione pochi minuti fa all'interno dell'area dell'aeroporto Dal Molin, dove deve sorgere la nuova base militare americana. A raccontarlo gli esponenti del coordinamento No Dal Molin, contrari al progetto. Al momento è stata abbattuta una palazzina, sta per essere smantellata una strada di collegamento. Summit di Camorra e un boss è finito in manette, sentite. Un summit della Camorra in pieno centro a Napoli, a Piazza Mercato, a pochi passi dal porto e dalla stazione centrale, interrotto dall'arrivo dei falchi della polizia. In manette 3 affiliati al clan Mazzarella, il più noto è Paolo Ottaviano, ritenuto l'attuale reggente del clan. C'è di mezzo il mercato dei falsi, particolarmente fiorente nel quartiere. I tre erano intenti ad effettuare proprio i conti della gestione del mercato di calzature griffate non originali. Sequestrato un catalogo di scarpe Hogan ed un elenco di commercianti a cui i prodotti falsificati erano imposti per la vendita sul mercato. In mano agli arrestati anche denaro contante ed un libro mastro attestante la contabilità del clan per la gestione del mercato del falso. Anna Rita Ambrosio, GR24, Il Sole 24 Ore. E andiamo al Tribunale Milano. Di Milano, dove c'è l'udienza per il processo Abu Omar. Ancora una volta si parla di segreto di Stato. Raffaella Calandra, è così? Sì, buongiorno. Silvio Berlusconi chiarisca gli effettivi termini del segreto di Stato nella vicenda Abu Omar. Il giudice del processo, Oscar Maggi, definisce ambigua le risposte fin qui avute dalla politica e per questo chiede esplicitamente che Palazzo Chigi si pronunci su quali ordini e direttive relative alla politica antiterrorismo e soprattutto alle cosiddette extraordinary rendition si imponga il silenzio. Una questione questa che tocca il cuore del processo, mentre pendono ancora alla consulta i conflitti per attribuzioni tra poteri dello Stato. La questione si era posta dopo che un dirigente Sismi aveva invocato il segreto di Stato in risposta a domande della difesa del generale Pollari ed era stata depositata anche una lettera di Berlusconi che chiedeva appunto di appellarsi al segreto sulla politica antiterrorismo, ma secondo il Tribunale non sono chiari i termini e per questo in 30 giorni Palazzo Chigi dovrà specificarlo per iscritto. Staremo a vedere come andrà a finire. Grazie a Raffaella Calandra. Da Milano con un balzo a Roma per cambiare anche argomento, perché Al Pacino, la star che aprirà stasera il terzo Festival Internazionale del Film di Roma, è arrivato nella capitale. Questa sera ritirerà il premio Marco Aurelio d'Oro alla carriera da grande protagonista, ma naturalmente non sarà l'unico. Un festival italiano, ma non solo. L'immancabile polemica preventiva era quella sul festival autarchico, chi lo temeva e chi lo auspicava. I film di casa nostra arrivati alla fine a Roma sono tanti, ben 21 in tutto, ma il presidente Gianluigi Rondi ha assicurato non c'è stata alcuna pressione. Ciò che è certo è che anche al cinema gli italiani tengono famiglia. Ad aprire la rassegna l'ultima erede di uno dei clan più generosi del nostro spettacolo, Maria Sole Tognazzi, che nel suo L'uomo che ama parla di amore al maschile e confessa di essersi ispirata a padre e fratelli. Gli uomini di Tognazzi nella sezione anteprima sfideranno un altro figlio e nipote d'arte, Brando De Sica, classe 1983. Per fortuna Matteo Rovere ci dimostra che anche la gavetta tradizionale può portare i suoi frutti. Con Un gioco da ragazze è in cinema 2008. Matteo è arrivato al lungometraggio dopo 4 corti presentati a 130 festival con 40 vittorie. E le star internazionali? Poco poche e pochissime americane. Viggo Mortensen festeggerà i 50 anni con due film e un incontro col pubblico. Ci dovrebbe essere Colin Farrell. Tra le proiezioni speciali, l'inglese The Garden of Eden ha nel cast Mena Suvari, mentre Rock and Roll potrebbe portare a Roma l'ex di Madonna Guy Ritchie. Il progetto 8 contro la povertà nel mondo è firmato da 8 grandi, da Jane Campion a Gael García Bernal, da Gus Van Sant a Wim Wenders. Chi ci sarà? Come sempre, tra annunci e defezioni, lo scopriremo all'ultimo momento. Oggi però è il giorno di Al Pacino, in uno dei grandi incontri col pubblico che restano segno distintivo di Roma. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. 13, 18 minuti e 40 secondi, le notizie di oggi, GR Extra Large. La polizia nelle università contro le occupazioni, così dice Berlusconi questa mattina a fianco della Gelmini, ha difeso le riforme della scuola. A Torino e Roma intanto gli studenti mettono i lucchetti negli atenei e sospendono le lezioni. No grazie, le banche replicano al premier che invocava liquidità. Non ci servono aumenti di capitale, dicono i banchieri italiani riuniti a Milano. Già si annuncia battaglia per il decreto Alitalia. Tra poco infatti si aprirà la seduta alla Camera per la fiducia. Giuseppe Frigo, giudice della Corte Costituzionale, ecco come ho fatto a ricompattare gli schieramenti, dice a Extra Large. Tra poco l'intervista. È una di quelle decisioni che la Corte Costituzionale affida all'ampia maggioranza politica. Parliamo dell'elezione dei giudici di nomina parlamentare alla Corte Costituzionale. Come sapete, dopo mesi di incertezza, 21 tentativi andati a vuoto, ieri è stato eletto Giuseppe Frigo, avvocato penalista, che prende il posto di Giuseppe Vaccarella, dimissionario dal maggio del 2007. 73 anni, Frigo in passato ha difeso il pool di Mani Pulite davanti alla Corte Costituzionale per conflitto di competenze. Ha assistito Adriano Sofri ed Emilio Gnutti. Raffaella Calandra l'ha intervistato. Ma purtroppo a me è dispiaciuto molto, perché ho trovato che non fosse particolarmente limpida la operazione fatta contro Pecorella. Devo dirlo, d'altra parte ho dovuto apprezzare e non ho potuto non apprezzare il gesto che ha fatto, di grande signorilità e di grande equilibrio, che ha fatto Pecorella rinunciando alla propria candidatura. Devo dire che prendere atto che si cercava una persona fuori del Parlamento, perché a questo punto si ritenevano bloccate tutte le possibili candidature parlamentari, ho visto che non fosse una candidatura la mia in concorrenza con queste, perché non mi sarebbe assolutamente stato possibile accettare, ma era invece la scelta di una persona fuori dell'ambito della contesa politica e quindi di un tecnico. A questo punto io ho detto che ero a disposizione. Alla consulta attualmente pendono, sarà chiamata, è chiamata a pronunciarsi su leggi e su vicende, molto delicate, tra il lodo Alfano, la vicenda sul segreto di Stato per il processo a Buomarra, ancora quella sui dossier illegali. Ecco, un professore di lunga carriera come lei, però neo designato appunto per la consulta, ecco, come vede anche i futuri impegni rispetto a delle leggi su cui dovrà pronunciarsi, e leggi anche espressione comunque del governo che l'ha designata? Ma veda, il fatto è questo, che avendo ricevuto un consenso così ampio, io ritengo comunque di essere impegnato a soluzioni che non siano soluzioni radicali di parte, ma che siano soluzioni meditate, soluzioni il più possibile serene, equilibrate e soprattutto illuminate dai principi costituzionali, perché questo si chiede alla Corte Costituzionale, non si chiede di sostituirsi al legislatore. La Corte Costituzionale deve semplicemente valutare che il legislatore resti nel grande alveo della Costituzione. Quindi non c'è nessuna pronuncia che ora, quantomeno un po' la preoccupa? Ad esempio, io penso al lodo Alfano. Ma veda, le decisioni sono quasi sempre, proprio perché ormai siamo a momenti particolarmente sofisticati, sono quasi sempre decisioni delicate, non sono mai quando arrivano alla Corte Costituzionale. E del resto in passato abbiamo fatto alla Corte Costituzionale questioni che riguardavano addirittura l'impianto generale del codice di procedura penale, insomma. Quindi se pensiamo, cioè, oggi si pensa al lodo Alfano perché gli si dà un significato particolarmente forte dal punto di vista politico. A suo tempo capitò a noi penalisti di dare un significato molto forte alle questioni che riguardavano il codice di procedura penale, il nuovo codice della Repubblica, il primo codice della Repubblica, e quindi sa, la Corte Costituzionale ha questo compito e non ci si deve sottrarre, non esistono soluzioni di routine alla Corte Costituzionale, sono tutte soluzioni particolarmente delicate, altrimenti non arriverebbero lì, insomma, ecco. Il fatto che, appunto, ripensando un po' anche a tutti i mesi che ci sono passati con una vacatio, diciamo, alla consulta dopo appunto il passo indietro di Vaccarella, e anche a tutte queste trattative politiche che ci sono state adesso per la nomina, ripensare a tutto questo e ripensare anche alle modalità con cui si arriva alla designazione e all'elezione di un giudice della consulta, forse non è forse un organismo che meriterebbe, diciamo, un rispetto, chiamiamola così, come un po' anche maggiore rispetto a tutte queste battaglie politiche che ci sono? Ma il rispetto prima di tutto è quello che riguarda l'osservanza delle maggioranze. Si richiedono delle maggioranze qualificate proprio per questo, insomma, no? E quindi è naturale che ci siano queste difficoltà. Io non mi meraviglio affatto. Io anzi penso che delle maggiori riflessioni, delle riflessioni che sono richieste proprio da queste maggioranze qualificate, sono riflessioni che possono portare ad un risultato utile. Questa è la scelta che fecero a suo tempo i nostri costituenti quando chiesero queste maggioranze qualificate. Certo, no, io pensavo al fatto che fosse stata così strettamente correlata con la nomina del presidente della vigilanza RAI, che con la consulta non c'entra niente. Ma questo lo so, ma questo dipende dal fatto che i nodi si sono presentati insieme. Infatti io questo fatto, dicevo, in questo senso evocavo, diciamo, il rispetto. Cioè, ma difatti si è cercato proprio di fare questo, di tenere separate il più possibile le due cose. L'ultima cosa, professore, lei come definirebbe lo stato della giustizia italiana in questo momento? So che è una domanda amplissima, no, però come lo dire? Lo stato della giustizia italiana è uno stato di malattia, ma non è una malattia inguaribile. Io credo che si possa guarire. L'importante è non considerarla inguaribile e rassegnarsi. L'importante è lavorare perché possa guarire. L'ottimismo del neo giudice della Corte Costituzionale Giuseppe Frigo, al microfono di Raffaella Calandra. Attesa una grande folla per dare l'ultimo saluto a Vittorio Foa, morto a 98 anni nei giorni scorsi, un uomo di riferimento per la sinistra italiana e per il sindacalismo. Allora andiamo in diretta alla sede della CGIL a Roma, dove c'è Elisabetta Fiorito. La corona di fiori del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, i gonfaloni di Torino e Roma, la bara davanti alla sede della CGIL in Corso d'Italia, il sindacato che lui, Vittorio Foa, aveva a lungo guidato. Così la CGIL e la sinistra ricordano il grande storico scomparso in questi giorni. La CGIL era la vera casa di Vittorio, dice il segretario Guglielmo Epifani. In questi ultimi tempi era preoccupato per le divisioni, un modo di considerarsi sempre dentro, mai fuori. Il segretario del Partito Democratico Walter Veltroni invece ricorda l'ottimismo di Vittorio Foa, un inguaribile ottimista, dice che non vuol dire che le cose vadano bene, ma è che è possibile darsi da fare per cambiarle. Poi ricordi dei familiari, quelli di intimità domestica, la vita a Formia, i saluti e infine anche il saluto di tutti quelli che l'hanno conosciuto. E per il momento qui dalla CGIL è tutto, voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. In qualche modo una tappa storica anche quella che stiamo per raccontarvi. Nella notte l'India è entrata a far parte del club delle potenze spaziali. Chandrayaan 1 è infatti in viaggio verso la Luna alla ricerca di acqua e minerali preziosi. Con Con il lancio riuscito di una sonda senza uomini a bordo, l'India entra nel club dei paesi spaziali. Chandrayaan 1 si dirige infatti in queste ore verso la Luna, che studierà per circa 2 anni. Lo ha confermato il Centro Spaziale Indiano di Sriharikota, nell'India orientale. Obiettivo della missione è quello di ridisegnare la cartografia della superficie lunare e di ciò che si trova immediatamente al di sotto della superficie. È un momento storico per l'India, ha detto il presidente dell'Organizzazione di Ricerca Spaziale Indiana, Madhwan Nair, il quale spera che la spedizione permetta realmente di svelare i misteri della Luna. La sonda pesa 1,5 tonnellate e trasporta 11 strumenti scientifici, 3 dei quali dell'Agenzia Spaziale Europea, 2 invece della NASA americana. Tra gli strumenti uno spettrometro ad alta risoluzione che analizzerà la composizione dei minerali. C'è poi un miniradar che cercherà di individuare depositi di ghiaccio nelle regioni polari. Una volta in orbita intorno alla Luna, Chandrayaan sgancerà un probe che raggiungerà la superficie del satellite. Il probe si distruggerà probabilmente all'impatto, ma il tricolore indiano, che ricopre un solido rettangolo metallico, sarà comunque posato per la prima volta sulla Luna. Sarà dunque un momento simbolico carico di emotività, cui verrà dato ampio spazio televisivo e che porterà l'India, almeno sul piano mediatico, a livello proprio delle grandi potenze e dei rampanti vicini cinesi. Acqua e minerali dunque nella ricerca di Chandrayaan e maggiori informazioni sul prezioso elio 3, l'isotopo non radioattivo dell'elio che potrebbe alimentare le centrali nucleari della prossima generazione. Rarissimo sul nostro pianeta, si pensa che possa essere più abbondante sulla Luna, dove sarebbe stato depositato come una coltre di polvere dal vento solare. Gigi Donelli, GR24, Sole 24 Ore. 13:35 minuti, extra largo le notizie di oggi. La polizia nelle università contro le occupazioni, così dice Berlusconi. Questa mattina a fianco della Gelmini ha difeso le riforme. A Torino e Roma intanto gli studenti mettono i lucchetti negli atenei e sospendono le lezioni. No grazie, le banche replicano al Premier che invocava liquidità. Non ci servono aumenti di capitale, dicono i banchieri riuniti a Milano. C'è un dato positivo per quanto riguarda i conti pubblici che l'anno scorso sono andati bene. Nel 2007, infatti, secondo l'Istat, l'indebitamento dello Stato è diminuito di oltre 25 miliardi di euro. Già si annuncia battaglia intanto per il decreto Alitalia. Tra poco si aprirà la seduta alla Camera per la fiducia. Gli Stati Uniti riprendono le esecuzioni capitali. Eseguita in Texas la condanna a morte di un 29enne, la prima di 10 già programmate. In Europa si gioca dopo il successo della Juventus. Questa sera tocca all'Inter e alla Roma. E come abbiamo sentito, negli aggiornamenti di borsa sono negativi i listini, pesano i timori per la recessione economica globale. Abbiamo già parlato per quanto riguarda le conseguenze della crisi finanziaria, della risposta delle banche italiane alle ipotesi che occorrano nuovi aumenti di capitale. Mentre sempre oggi i due maggiori soci di Mediolanum, Doris e Fininvest, hanno fatto sapere che si faranno carico delle perdite sulle polizze legate alle obbligazioni di Lehman Brothers, come ricorderete, fallita un mese fa in America. Allora sentiamo Ennio Doris al microfono di Deborah Rosciani. I clienti che nostri con le Lehman, che sottolineo sono 10.000 su 1.100.000, sono pochi perché noi suggeriamo di diversificare moltissimo, e anche il patrimonio di questi clienti coinvolti nel caso Lehman è appena il 15% mediamente di quello che loro hanno con noi. Però certamente particolarmente sfortunati, per cui ci siamo detti dobbiamo fare qualche cosa a loro favore. Solo che il costo di questa operazione è molto elevato, è di circa 120 milioni di euro e avrebbe gravato pesantemente sui conti dell'azienda e quindi anche sui piccoli azionisti, gli azionisti di minoranza. E allora col gruppo Fininvest ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti, io credo che noi possiamo permetterci di essere vicini ai clienti e di assumere sulle nostre spalle questo costo, anche se è piuttosto elevato, di 120 milioni. Togliamo i titoli Lehman dalle polizze e ci mettiamo dentro degli altri titoli obbligazionari emessi da Primaria Banca italiana in Italia e Primaria Banca spagnola in Spagna, in maniera tale che alla scadenza i clienti possano incassare quello che avevano investito, ma in maniera tale anche che prima della scadenza possano o per esempio chiedere un prestito o estinguere la polizza anticipatamente, perché il titolo sotto è un titolo diciamo oggi che non ha più i problemi di Lehman. Crisi globale, si cercano le soluzioni, la vignetta di Krančić, così questa mattina sul Giornale. Sono in fila Bush e i leader europei con in mano i soldi per giocare al Superenalotto. Per la cronaca, ieri sera non è stato centrato il 6, domani nuova estrazione, in palio 100 milioni di euro. E continuiamo a parlare di economia. Ieri l'allarme di Draghi sul fronte del calo dei consumi italiani. Si parla di recessione per l'economia italiana anche nelle stime del Fondo Monetario Internazionale. Oggi Confcommercio, la principale associazione che raggruppa appunto i commercianti, ha presentato le sue iniziative in materia di prezzi e consumi, una materia quanto mai interessante di questi tempi. Francesca Malaguti, che cosa è emerso? L'associazione dei commercianti vuole sfatare, dati alla mano, quelli che chiama false verità molto popolari sui prezzi. I dati sono dell'ufficio studi di Confcommercio, ma anche di un ente esterno come l'ISMEA. È vero che i consumi calano perché i prezzi aumentano? No, secondo Confcommercio. Questa è la prima falsità, dato che a fronte di un'inflazione che è circa uguale in tutta Europa, sono solo in Italia i consumi sono in calo. E questo è dovuto a problemi più strutturali, riflessi nella scarsa dinamica della produzione. Secondo punto, falso anche, secondo Confcommercio, che i dettaglianti sono quelli che guadagnano di più nella filiera. L'associazione calcola che su un euro di spesa l'utile degli imprenditori tra dettaglio e ingrosso è solo di 9 centesimi. Infine viene respinta anche l'accusa di mantenere i prezzi finali alti mentre i prezzi alla produzione calano. Se si guarda l'intera dinamica su tutto il 2008, dice infatti l'associazione, e non solo gli ultimi mesi, si vede che sul lungo periodo i prezzi al consumo in realtà smussano le oscillazioni di quelle alla produzione. Vabbè i falsi miti, Francesca, i falsi miti dei commercianti sul commercio in Italia, però che cosa propongono per i consumatori i commercianti riuniti in Confcommercio? Beh sì, questa domanda ovviamente è stata posta al presidente Sangalli, secondo cui però i commercianti sono già costretti a fare la loro parte, anche tristemente, dice, se si considerano tutti gli esercizi commerciali chiusi negli ultimi anni. Ed era presente anche il presidente di Federdistribuzione Barberini, che sottolinea come nella grande distribuzione sono oggi in sconto il 25% dei prodotti. Dunque, dice Sangalli, servono soluzioni a monte, come la detassazione delle tredicesime, che si tradurrebbe quasi automaticamente in maggiori consumi, e una maggior collaborazione tra banche e piccole e medie imprese. E infatti domani il presidente Sangalli incontrerà il numero uno dell'ABI, Corrado Faissola. Grazie a Francesca Malaguti. Tra i paesi considerati da sempre con regole fiscali poco trasparenti c'è la Svizzera, ma ora a prendere posizione in modo ufficiale per inserirla nella lista nera dei paradisi fiscali è una lunga lista di paesi. Vuoi perché la crisi invoglia la riscrittura delle regole, vuoi perché Berna non ha le caratteristiche geografiche delle isole Cayman, vuoi perché i vicini si sono stufati di subire condizioni con le quali non possono competere, sta di fatto che ieri in 17 hanno chiesto all'OCSE la revisione della lista nera per inserire anche la Svizzera. La lista in questione elenca i paesi che non collaborano nella lotta all'evasione fiscale. Attualmente sono circa una quarantina e spesso ospitano quei fondi speculativi senza controllo finiti sul banco degli imputati della crisi in corso. Ma solo 3, Andorra, Liechtenstein e Monaco, si rifiutano di diffondere qualsiasi informazione sui loro settori finanziari. A fare nomi e cognomi è stato il ministro delle finanze tedesco. Non discuto della sovranità della Svizzera, ha affermato Steinbrück, ma è la sovranità della Germania che viene messa in difficoltà dalle condizioni offerte da altri paesi. Si è accodata anche la Francia. La Svizzera ha fatto progressi, ma non bastano. Per compilare e presentare la nuova lista c'è tempo fino al maggio del 2009. Valeria De Rosa, GR24, il Sole 24 Ore. Andiamo in Texas, negli Stati Uniti, dove riprendono le esecuzioni di condanne a morte. Un uomo di 29 anni è stato infatti giustiziato con un'iniezione letale in un penitenziario del Texas. Si tratta della prima di 10 esecuzioni capitali programmate nei prossimi 30 giorni nello Stato. Il detenuto era stato condannato per l'omicidio di un uomo di 64 anni. La concentrazione di esecuzioni in un mese è eccezionale anche per il Texas. È stato questo il commento di uno dei portavoce della battaglia contro la pena di morte, morte il presidente della coalizione texana Rick Halperin. E apriamo la nostra finestra sul mondo arabo con Adib Fateh Ali. Le riserve di Baghdad sul trattato USA-Iraq e l'ammonimento di Washington sulle nefaste conseguenze di una mancata ratifica in primo piano sulla stampa araba di oggi. Al-Hayat riporta le parole del premier al-Maliki: quello che Washington concede con una mano lo toglie con l'altra. Le disgrazie della finanza mondiale portano benefici al Libano, così scrive Al-Quds Al-Arabi, che parla di fondi fuggiti dalle banche USA ai paesi del Golfo che trovano un rifugio sicuro a Beirut, dove la banca centrale del paese avrebbe avuto un sensibile incremento delle sue riserve strategiche. Negli Emirati Arabi, licenziato un conduttore di un programma radiofonico di intrattenimento per aver recato offesa alla religione. Il giornale Al-Imarat riporta che il giornalista sudafricano, commentando la decisione di una corte USA che aveva respinto una causa contro il Padre Eterno, aveva dato lettura ad un ipotetico dialogo con Dio pubblicato su un blog. Calcio europeo stasera tocca a Inter e Roma. Dimenticare il campionato per non farsi prendere da eccessi di euforia l'Inter, per non cadere in depressione la Roma. Dopo la sfida dell'Olimpico, finita con la passeggiata di Ibra e Soci sulle rovine romane, i due club affrontano questo mercoledì di Champions con spirito opposto. Per l'Inter, capolista solitario in campionato, il compito da svolgere a San Siro è abbastanza semplice. I ciprioti della Nortosis, anche se non esistono più le squadre materasso, difficilmente complicheranno la vita ai nerazzurri, ma il creativo Mourinho, che rilancia il portiere Toldo per far rifiatare Carlos Alberto, richiama giustamente la tupa a un bagno di umiltà. Abbiamo bisogno di questi tre punti e dobbiamo parlare chiaro, senza paura. Se vinciamo, la nostra situazione in Champions è buona. Se non vinciamo, la nostra situazione in Champions è difficile. E la differenza fra il difficile e la tranquillità è vincere. E ovviamente i tifosi possono giocare un ruolo importante. Per la Roma, dopo tanti sbandamenti, urge una scossa per non compromettere un cammino europeo fin troppo legato al futuro economico del club. Ma i problemi sono tanti, non ultimo la forza del Chelsea, che a Londra, per dirne una, è imbattuto da 86 partite. Ma più che gli inglesi, la Roma deve temere se stessa, come spiega Spalletti. Noi dobbiamo fare attenzione a combattere quelle che sono le nostre difficoltà. Il nostro nemico sono le nostre difficoltà. Bisogna mettere a fuoco bene queste difficoltà e combattere queste difficoltà. E dopo viene naturalmente anche il Chelsea, perché è uno dei club più importanti al mondo. Insomma, è dura. Però gli italiani, quando la notte si fa buia, si esaltano. Speriamo sia così anche questa volta. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:48, le notizie di oggi. La polizia nelle università contro le occupazioni invoca Berlusconi. A Torino e Roma intanto gli studenti mettono i lucchetti negli atenei, lezioni sospese. No grazie, le banche replicano al premier che invocava liquidità. Non ci servono aumenti di capitale, dicono i banchieri da Milano. Classi per stranieri? Solo buonsenso, la replica di Palazzo Chigi alle critiche. Ma negli altri paesi che cosa si fa? Prosegue il nostro viaggio. E già si annuncia battaglia per il decreto Alitalia. Alla Camera si vota la fiducia, iniziato il dibattito. E allora andiamo proprio a Montecitorio, dibattito per la fiducia sul decreto Alitalia. Un flash con Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Il voto dovrebbe arrivare tra circa un'ora, inizierà quindi l'esame degli ordini del giorno presentati al provvedimento, ci sarà poi il via libera finale. Il testo, lo ricordiamo, passerà così al Senato, dove dovrebbe essere licenziato entro la fine del mese. Tra le novità introdotte qui a Montecitorio vi è l'aumento della tassa di imbarco salita a 3 euro, il commissario straordinario potrà vendere poi, oltre a rami d'azienda, anche il settore contratti, ad esempio con le agenzie di viaggi, e i beni, come gli aerei, considerati in eccedenza rispetto alle esigenze della new company. È stata invece cassata la contestata norma salva manager. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Torniamo ad aprire il capitolo scuola di Berlusconi, che dice la polizia potrà intervenire nelle università. Abbiamo già parlato, c'è però anche un altro capitolo ed è quello delle cosiddette classi differenziate. Nessun razzismo, ha detto questa mattina sempre Berlusconi, solo buonsenso, le cosiddette classi ponte. Fatto sta che però il tema c'è ed è dibattuto in questi giorni. Come favorire l'inserimento dei ragazzi stranieri. Francia e Germania, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il problema se lo sono posti ben prima di noi. Oggi vi portiamo al nord, in un altro paese, in Finlandia. Libri, corsi di recupero, lezioni propedeutiche all'ingresso alle elementari. Tutto gratis. I bambini che vanno a scuola in Finlandia ma arrivano da altri paesi devono solo adattarsi a un anno e mezzo di attesa. Prima di entrare alle elementari, infatti, devono frequentare dei corsi preparatori. In queste classi si insegna il finlandese ma anche le altre materie previste dai corsi normali, in modo da creare un livello di preparazione omogenea e impedire che una volta integrati i bambini possano restare indietro con il programma o ostacolare i compagni. Entrati a scuola, tutti affrontano lo stesso percorso obbligatorio che dura fino ai 17 anni. Gli immigrati hanno a disposizione circa 3 ore alla settimana con un docente di madrelingua che di solito arriva dal loro paese di provenienza e con cui possono discutere anche dei problemi scolastici. Se rimangono indietro o hanno difficoltà ulteriori, i comuni possono organizzare dei corsi di recupero finanziati dallo Stato da frequentare dopo la scuola. Poi, la possibilità di scegliere per tutti le stesse chance, come previsto dalla legge finlandese in materia di istruzione. Lena Nissila, responsabile delle politiche di integrazione del Ministero dell'Istruzione finlandese. Tutti vanno a scuola e poi vanno dove gli pare, in stage e training professionale o all'università a seconda del grado di preparazione che hanno. Penso che il principio fondamentale da noi è che diamo a tutti le stesse possibilità di accesso all'istruzione e i bimbi migranti hanno le stesse possibilità dei ragazzini finlandesi in tutti i livelli del sistema educativo. In the all levels of the school system. Mercoledì spazio alla mondanità. Madonna. Nel senso che vorrei partire proprio da lei, la planetaria inossidabile pop star Madonna, che compiuti 50 anni ne combina ben più di quando ne aveva 24. Intanto, dopo aver smentito per tutta l'estate, ve lo ricordate, la crisi coniugale con il marito Guy Ritchie, ora che non può più negare l'evidenza dei fatti, ci si chiede, con il divorzio ormai annunciato, perché è stato annunciato, come verrà spartito il patrimonio familiare da 525 milioni di dollari, accumulato, a dire la verità, per il 95% grazie alle fatiche della Material Girl? E mentre ci si tormenta con questo interrogativo, si mormora che i motivi del divorzio sarebbero da attribuire ai 18 mesi, sentite bene, di astinenza da incontri, per così dire intimi, cui Madonna avrebbe sottoposto il logorato consorte perché è troppo stanca a causa degli estenuanti allenamenti fisici cui la cantante si sottopone per mantenere la sua scarnita e più che invidiabile forma fisica. Ma a quanto pare questa sarebbe soltanto una scusa. Pensate che nonostante non sia ancora entrata nel pieno la battaglia per il divorzio, Madonna ha già individuato l'uomo perfetto, udite udite, per la sua terza gravidanza. Si tratta del campione di baseball Alex Rodriguez, da mesi sospettato tra l'altro di essere l'amante della pop star. Come se non bastasse, Madonna avrebbe già sottoposto il giocatore a dei test per verificare le sue, diciamo così, potenzialità di padre. Ora, a parte la longeva fertilità di Madonna, che a quanto pare evidente, non vi viene da pensare che a 50 anni, tutto sommato, c'è anche altro da fare, soprattutto dopo che si hanno già una nidiata di bambini tra figli naturali, adottati e addirittura in attesa di adozione. Questa mania sta un po' prendendo effettivamente le caratteristiche di una nevrosi, di una sindrome da, consentitemelo, collezionismo coatto di infanti. Ed è tra l'altro una sindrome che pare abbia contagiato anche altri VIP. Angelina Jolie e Brad Pitt, la coppia, come si dice, no, più glamour di Hollywood, vuole adottare ancora. Hanno 6 figli. Una coppia di gemelli nati 3 mesi fa, la piccola Shiloh Nouvelle, 3 bambini adottivi, insomma una vera e propria tribù, ma i 2 attori non intendono fermarsi. Angelina tra l'altro ha confermato che sia lei che il compagno hanno proprio intenzione di adottare ancora e l'attrice sogna una famiglia arcobaleno e dopo la figlia africana Zara, un bimbo cambogiano Maddox, il piccolo Pax Tien vietnamita, lei si augura di poter ospitare altri piccoli orfani adottati in giro per il mondo. Desiderio encomiabile, per carità, ma con le loro vite scapigliate, definiamole così, inquiete, rutilanti, no, di queste star, non sarebbe meglio che aiutassero economicamente i bambini in giro per il mondo e nei momenti di vuoto esistenziale si dedicassero al ramino, per esempio, no? Così, giusto un velato suggerimento, un suggerimento come un altro, niente di che. E dopo tutto ciò, Roberta Giordano si ferma qui e con il gossip vi dà appuntamento al prossimo mercoledì. Non permetteremo occupazioni e violenza. Berlusconi in soccorso del ministro Gelmini per difendere la riforma della scuola e i tagli agli atenei. Veltroni però incalza un decreto da ritirare. No grazie, le banche declinano l'invito del premier. Non abbiamo bisogno di liquidità, dicono gli istituti italiani. Ma intanto le borse tornano a vedere nero. Arriva in Europa l'onda lunga di Wall Street e dell'Asia. Nubifragi a Cagliari, una donna è morta annegata e c'è pericolo esondazione per una diga. Giuseppe Frigo, giudice della Corte Costituzionale, pace fatta perché io sono uomo fuori del Parlamento, dice ai microfoni di Extra Large. Ma la prossima battaglia è già per la fiducia al decreto all'Italia, la Camera pronta a votare e a spaccarsi ancora. Ed è tutto per questa edizione di Extra Large. In studio Alessio Maurizi, a coordinamento Daniele Biacchessi, in regia Filippo Aureggi. E anche da Anna Migliorati un saluto e a domani dalle 13. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.